desidero un'amaca salda dove riposerò. E lo sai, è una disperazione pilotata quella che vivrò. Ma prendi il sole e posalo sul mio corpo come lenzuolo che scopre, accende come insolita maschera, poi spegne tutto, mi volterò via da me, via da me. Dentro questo fazzoletto di poesie dove rotolano parti oscure di me. Dissolverò dentro l'alba, ma non mi perdonerò.